Ho visto il mare sotto la mia pelle e ho visto qualcosa sul fondo luccicare. Io so bene come ci si sente a lasciare andare i ricordi in un monolocale che brucia, la rabbia e lampioni scoppiati a Lisbona, la pioggia che ci bagnava, piango in un balaclava tutte le lacrime che ho. Ma che sarà mai guardarti mentre te ne vai col mio cuore in tasca? Non sono mai stata meglio, mezza morta in un parcheggio. Ma è inutile se ciò che resta di noi è l'abitudine di raccogliere i pezzi sotto un cielo che si smonta in quel parcheggio mezza morta. No, non mi serve spazio, già ce l'ho. Che bello spazio freddo, caramelline al gusto, antipanico, tutto per lasciare andare i ricordi in un monolocale che brucia, la rabbia e lampioni scoppiati a Lisbona, le tue parole appunto a cava, prendi la mira e spara quello che resta di me. Ma che sarà mai guardarti mentre te ne vai? Sinceri, ma che sono?